Salva Danaio di Deborah Rosciani. C'è da spostare una macchina. Disc jockey, c'è da spostare una macchina. Venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela. E basta. Spostatela questa macchina, perché potrebbe essere in divieto di sosta e vi potrebbe naturalmente costare anche una bella multa. Attenzione però, perché magari questa multa, se la pagate in tempi abbastanza rapidi, potrebbe ottenere uno sconto. Allora, buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio, e a tutti buon inizio settimana. La possibilità di avere uno sconto sulle contravvenzioni stradali è una delle novità più recenti ed interessanti per gli automobilisti italiani. Questa modifica al codice della strada, questa opportunità è stata introdotta dal cosiddetto decreto del fare e dà valore appunto dalla fine di agosto. La riduzione è prevista nella misura del 30% nel caso in cui la persona, il conducente disattento a cui è stata comminata la multa, effettui il pagamento della sanzione entro 5 giorni dal momento in cui questa viene notificata. In occasione della pubblicazione della guida Multe e polizze in edicola oggi con il Sole 24 Ore, Salva Danaio spiega il funzionamento di questa novità rispondendo come sempre alle domande degli ascoltatori. Questo delle multe, delle sanzioni stradali è sempre un tema molto popolare, soprattutto per chi viaggia molto per ragioni di lavoro o anche per altri motivi e ha a che fare, suo malgrado, troppo spesso con multe e sanzioni. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta, oppure scriveteci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. su Facebook, su Twitter. Avete preso una multa recentemente? Sapete come fare per ottenere lo sconto? Con noi quest'oggi, collegati telefonicamente, il collega del Sole 24 Ore Maurizio Caprino. Buongiorno Maurizio, ben ritrovato. Grazie a tutti, buongiorno. E ben ritrovato anche al dottor Massimo Ancillotti, dirigente della Polizia Locale di Roma Capitale. Ancillotti, comandante, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Allora, prima di tutto questo, però, naturalmente, prima di mettere le mani al volante, adesso andiamo a vedere un po' che direzione hanno le borse europee. Mercato europeo che ancora guarda un po' probabilmente agli eventi della scorsa settimana, la Banca Centrale Europea, il mantenimento dei tassi di interesse nell'Eurozona, la prossima riunione della Banca Centrale Americana che partirà con delle considerazioni molto attente sull'andamento del mercato del lavoro americano. Sono stati diffusi i dati sulla disoccupazione statunitense proprio venerdì scorso, è stato giudicato un rapporto del lavoro deludente e questo appunto ha avuto il suo impatto sia sulle contrattazioni americane di venerdì discorso che anche stamattina ancora c'è qualche riflesso sull'andamento delle contrattazioni europee. Stamattina è andata molto bene l'Asia, il Nikkei a Tokyo ha chiuso con un rialzo del 2,48%, la megalopoli giapponese è stata scelta proprio sabato scorso a Buenos Aires per ospitare i giochi olimpici del 2020 dopo aver battuto Madrid ed Istanbul nel voto del Comitato Olimpico Internazionale, e questo naturalmente è un buon auspicio per questa zona, già peraltro al centro di molti interventi di politica monetaria. Quindi dal punto di vista economico una zona molto in fermento. Detto questo, l'Europa negativa prevalentemente, Parigi meno 0,43%, Francoforte meno 0,06%, Londra meno 0,42%, guarda un po' che succede, che Milano invece è positiva e guadagna lo 0,36%. A trainare Milano, Fiat più 4,22%, Fondiaria più 3,79%, Mediaset più 3 punti, Unicredit più 2,2%, più 1,70%, Popolare di Milano più 1,61%. Nonostante lo spread sia altino, 255 punti base, le banche oggi riprendono quota, ma con l'unica eccezione di Banca Monte dei Paschi, che adesso è in calo del 2,87%. Rocca Salimbeni in avvio perdeva quasi 5 punti percentuali, è stato reso noto l'ammontare dell'aumento di capitale che sarà necessario per rimborsare parzialmente i Monti Bond, e questa cifra ha un po' disturbato, un po' spaventato gli investitori, ma in ogni caso la banca è obbligata a questa direzione perché deve mettere in piedi il piano di ristrutturazione che è stato chiesto dall'Europa, e lo farà naturalmente con l'aiuto del Ministero dell'Economia e con l'aiuto di Banca d'Italia, ma in ogni caso più soldi chiesti al mercato, questa è la reazione del mercato stesso. E poi stamattina stanno scendendo i titoli delle società appunto con parziale intervento pubblico, che saranno al centro probabilmente di interventi di privatizzazione in autunno, come annunciato dal Premier Letta. Fra questi titoli i ribassi più forti sono quelli di Eni, meno 1,72%, Enel Green Power, meno 1,35%, Ansaldo in ribasso di un punto. Per la borsa è il tutto, il tema di oggi. Oggi multe scontate se si paga subito. Sentiamo. Vigile, ancora un'altra mutano. Non vede, ne ho già prese sei. Mi vuole rovinare lei. La multa è salata? Dal 21 agosto scorso, gli automobilisti colti con le mani nel sacco, ma pentiti, e soprattutto rapidi nel pagamento, potranno consolarsi con uno sconto. Precisamente un alleggerimento del 30% rispetto all'importo previsto dalla sanzione, ma a condizione che si paghi subito, entro 5 giorni dalla notifica. La novità è stata introdotta con una modifica al codice della strada prevista dall'ultimo decreto del fare ed è in vigore dallo scorso 21 agosto. I 5 giorni per il pagamento si contano a partire da quello successivo alla contestazione. Se il verbale è datato 11, ad esempio, si potrà pagare fino al giorno 16. Se il termine cade in un giorno festivo, si slitta al giorno dopo. In ogni caso si può pagare anche subito, al momento della contestazione, se questa avviene di persona. Se invece la multa è recapitata a casa, i 5 giorni si contano a partire dal giorno della notifica. La nuova regola vale per tutte le contravvenzioni, esclusi i casi che prevedono la confisca dell'auto, la sospensione della patente o sanzioni pecuniarie e penali. Si può pagare il giorno stesso in cui si riceve la multa, ma non si può versare la cifra in contanti direttamente all'agente. Il pagamento di persona è possibile solo utilizzando il denaro elettronico e quindi solo se la pattuglia è fornita di POS. È bene ricordare che il foglietto lasciato sul parabrezza in caso di divieto di sosta non ha valore legale. In questi casi, quindi, la data riportata non si considera valida come notifica. Chi nelle prossime settimane riceverà una multa relativa ad un'infrazione precedente all'entrata in vigore della nuova legge potrà comunque usufruire dello sconto facendone esplicita richiesta, anche se la possibilità non sarà indicata nel verbale. Tutto questo senza dimenticare che per chi non riesce ad essere sufficientemente rapido e per i più distratti, resta valida la precedente scadenza di 60 giorni. Se si supera anche quella, oltre a non aver goduto dello sconto, si finisce per pagare di più. Vigile, vigile, ma vigile, vigile, ma... 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione per intervenire in diretta e farci tutte le domande sul tema di questa mattina. Vi ricordo ancora la guida del Sole 24 Ore pubblicata questa mattina, le novità sull'auto, che cosa cambia per multe e polizze. Noi ci focalizziamo sul tema delle multe questa mattina e giustamente il pezzo di apertura di Maurizio Caprino titola Slalom al volante fra sconti e rincari, agevolazioni sul pagamento delle multe. Ma insomma, Maurizio, è possibile avere un primo resoconto di questa operazione? È un'opzione, quella dello sconto, che è stata apprezzata dagli automobilisti italiani, la usano, insomma si affrettano a pagare pur di ottenere chiaramente una sanzione ridotta? Ma allora, riscontri statistici non ce ne sono, però ovviamente qui parliamo di uno sconto corposo, insomma il 30% che cancella, diciamo, con un colpo di spugna buona parte o comunque una parte significativa dei rincari che ci sono stati, sia per l'inflazione sia perché alcune sanzioni sono state inasprite nel tempo, quindi sicuramente il riscontro è positivo. Un riscontro invece, una parte negativa di tutto questo è non solo l'incertezza che ancora avvolge la questione dei divieti, dei preavvisi per divieto di sosta di cui parlavate nella scheda, ma anche il discorso dell'incertezza se convenga fare ricorso o meno, nel senso che questi 5 giorni di tempo sono un periodo che normalmente può sembrare congruo, però se uno deve decidere in casi piuttosto dubbi, e purtroppo ce ne sono, noi ne siamo testimoni ogni giorno, se uno deve decidere se fare ricorso o meno, spesso 5 giorni non bastano per prendere una decisione, certo. Sì, perché bisogna documentarsi sia dal punto di vista legale, sia poi bisogna anche cercare dei riscontri, per esempio andare al comando da cui dipende la gente che ha accertato l'infrazione per capire per esempio come era stato montato l'auto, faccio l'esempio più frequente, quindi oggettivamente si rischia anche di farsi prendere un po' da questa fretta di pagare subito e quindi magari rinunciare anche al proprio diritto di difesa. Sentiamo se è d'accordo con queste tue osservazioni chi opera direttamente sul campo tutti i giorni, guida delle pattuglie e naturalmente si confronta e magari qualche volta anche scontra direttamente con gli automobilisti multati. Massimo Ancillotti, dirigente della Polizia Locale di Roma Capitale, comandante, buongiorno, ci dica lei dal 21 agosto, da quando siamo venuti a conoscenza di queste nuove norme, che cosa è successo nella vostra quotidianità? Sì, le preoccupazioni del dottor Caprino in parte sono anche le nostre. Non abbiamo dati statistici, riscontri effettivi, anche perché tutto sommato sono passati poco meno di 15 giorni. La sensazione è una sensazione, rimane tale, quindi è del tutto personale, è che chi paga nei 5 giorni sfruttando questa agevolazione, questo istituto di diritto premiale, più o meno è quello che avrebbe pagato anche dopo, cioè non ho qualche dubbio che questa agevolazione sia proprio finalizzata all'ottica di aumentare il gettito, probabilmente semplicemente consente un aumento della disponibilità immediata. Perché diciamo che fondamentalmente la ratio della norma era quella, no? Quella di aumentare la riscossione, quindi insomma... Diciamo era quello di garantire un efficientamento migliore della riscossione delle sanzioni e creare un deterrente psicologico per facilitare e agevolare l'aumento delle sanzioni, l'aumento del pagamento delle sanzioni. Questo era un punto di vista così, tra virgolette, filosofico. Poi sul piano operativo le difficoltà sono molte e forse alcune neanche tutte esplorate. Già abbiamo avuto le grosse difficoltà che casomai poi vedremo sulla ammissibilità di questo beneficio sui tagliandi avviso, cioè sui verbali non ancora contestati e notificati, quelli che troviamo in sul parabrezza del veicolo, che abbiamo adottato un po' tutti i comandi di polizia, abbiamo adottato un'opzione favorevole all'ammissione di questo beneficio, ma con qualche dubbio in alcune realtà locali sono andate in diverse direzioni. Perché e praticamente apporre la contestazione sul parabrezza non ha la stessa validità, diciamo, formale di una notifica? No, non è una notifica, non è disciplinato. La procedura del cosiddetto taglio d'avviso, cioè di quel documento che troviamo sul parabrezza che attesta l'esistenza di una violazione, non ha valore legale di notificazione formale. Però si è ritenuto di consentire comunque, anche a fronte di un verbale di questo tipo, la possibilità di effettuare un pagamento in misura scontata del 30%, che comunque si estende fino ai 5 giorni successivi poi all'effettiva notificazione della violazione. Quindi teoricamente, comandante, chi trova la multa appunto sul parabrezza che cosa deve fare? Deve cercare di informarsi che cosa succede nel suo comune, come si comporta la polizia municipale appunto del posto, che cosa ha stabilito il sindaco, e quindi deve cercare di verificare se può pagare subito con lo sconto o deve aspettare la notifica a casa? Dunque no, dovrebbe essere riportato, i comportamenti operativi di quel singolo comando di polizia dovrebbero essere correttamente riportati all'interno del preavviso. Nel preavviso dovrebbe essere scritto se quel comando ha aderito a questa opzione di pagamento scontato, quasi tutti lo hanno fatto, e all'interno di quella procedura del verbale sarà scritto il termine, che potrebbe anche non essere di 5 giorni, il termine per cui è consentito di effettuare un pagamento questa volta scontato, ove la violazione lo consente, cioè non sia fra quelle per cui è escluso questo beneficio, facoltà che comunque gli sarà ugualmente consentita nei 5 giorni successivi alla contestazione e notificazione verbale, che verrà però gravato delle spese di notificazione. Certo, e infatti diciamo questa è una polemica aperta, Maurizio Caprino, se non mi ricordo male, perché chiaramente le spese di notifica poi naturalmente vanno a vanificare teoricamente lo sconto che si può applicare alla sanzione. Sì, esattamente, ed questo è molto antipatico, perché sulle spese di notifica ci sarebbe anche un rimedio di legge. Questo rimedio consisterebbe nell'imporre un tetto a queste spese, come è stato fatto già per le spese di rimozione quando un veicolo viene trovato in divieto di sosta. C'è un decreto ministeriale addirittura del 1998. Una soluzione analoga non si è voluta prendere per quanto riguarda le spese di notifica, quindi praticamente noi destinatari dei verbali poi paghiamo a piedi lista, quindi ci sono dei posti in cui si paga 10, posti in cui si paga 20 e non c'è un'apparente ragione. Il vero problema è che il settore è in mano anche, diciamo, ad aziende private che aiutano i comuni, ma gli aiuti hanno un costo e poi non sempre i comuni sono in grado di contrattare da pari, e quindi abbiamo delle super bollette proprio per questo motivo. Infatti, allora andiamo subito a ai casi concreti dei nostri ascoltatori che ci raccontano direttamente appunto che intanto che cosa è successo loro recentemente, per quale motivo ci interpellano e se hanno pagato appunto con questo sconto del quale stiamo parlando questa mattina. Allora interpelliamo immediatamente un'ascoltatrice in apertura, Ornella, che ci chiama da Milano. Buongiorno Ornella e benvenuta. Buongiorno a voi. Ci dica. Dunque, io ho due domande da fare, anzi ho bisogno di due chiarimenti. Il primo, proprio oggi mi è arrivata un avviso di notifica che devo andare a ritirare in posta, avrò tempo 30 giorni e la multa l'ho sicuramente presa prima del 21 agosto, se non ricordo male un divieto di sosta. Allora la mia domanda è questa: io questi 5 giorni li applico dal momento in cui andrò a ritirare questa multa che è in giacenza presso l'ufficio postale? E questa è la prima domanda. Quindi insomma, quando ha validità questa partenza della notifica, teoricamente, quando lei sono già partiti 5 giorni? Esatto, questa è la prima domanda. La seconda domanda è questa invece, un'altra cosa che mi è successa, che sono una grossa contribuente per il comune di Milano, come avete capito. Allora, un'altra multa l'ho presa. Perché non fa niente. Ad ogni modo, ho avuto a che fare col vigile, non ho firmato il verbale perché ho intenzione di contestarla, non mi è ancora arrivata la notifica. Il fatto di non aver firmato il verbale, quindi che cosa comporta? Lui mi ha fatto questa multa, io non ho firmato, non ho accettato il verbale. Partirà tutto dal momento in cui mi arriverà appunto la notifica, la raccomandata che andrò a ritirare o che ritirerò direttamente a casa mia? Ecco, queste sono le due domande. Grazie che Ornella, le chiedo per la risposta di attendere un paio di minuti perché andiamo alla nostra prima pausa pubblicitaria, però insomma proprio il tema della notifica da quando parte mi sembra proprio centrale in tutta la discussione, anche perché appunto tutto passa attraverso anche le raccomandate postali. 800 24 00 24 per continuare a prenotare i vostri interventi. Anche pronto Franco da Roma, e anche lui lo sentiamo subito dopo la nostra pausa pubblicitaria. Andavo a 100 all'ora per trovare la bimba mia, andavo a 100 all'ora per cantare la serenata, blem, blem, blem, blem, blem, blem, blem, blem, e non vedevo l'ora di baciare la bocca sua, Altro che 30% di sconto per chi va troppo velocemente sulle strade italiane. Da questo punto di vista ci sentiamo di farvi tutte le raccomandazioni del caso, naturalmente, per avere invece un comportamento corretto sulle strade, appunto soprattutto con il pedale dell'acceleratore, per quello che riguarda invece tutte le altre multe prese appunto per altri motivi, in particolar modo, come dire, il divieto di sosta è la regina, il re delle infrazioni. Allora, che cosa si può fare naturalmente per fare in modo che non ci pesino più di tanto sulle portafoglio se proprio non possiamo fare a meno di parcheggiare in maniera scorretta? Allora, si può pagare immediatamente a 5 giorni di distanza dalla notifica di questa infrazione, e però appunto, come avete sentito anche nella prima parte del programma, di questo stiamo parlando questa mattina perché oggi tra l'altro c'è anche una guida su tutti questi temi con il Sole 24 Ore. Non sempre è chiaro capire proprio il cosiddetto meccanismo della notifica. L'ascoltatrice che ci ha chiamato prima, Ornella da Milano, ci ha raccontato che ha preso una multa prima del 21 agosto, quindi intanto prima che entrassero in vigore le nuove norme, e però questa multa gli è stata notificata in questi giorni, per cui comandante Ancillotti, polizia locale di Roma Capitale, intanto l'ascoltatrice ha preso questa sanzione prima dell'entrata in vigore delle norme, come vi dicevo. Che cosa le succede? Nel senso che praticamente se volesse pagare con lo sconto, intanto deve appunto far affede la notifica di questa infrazione? Sì, dunque, i chiarimenti ministeriali immediati dopo l'entrata in vigore della riforma consentono il beneficio del pagamento scontato anche se la violazione è stata accertata prima dell'entrata in vigore del decreto del fare, e notificata in tempi successivi, purché ovviamente il pagamento scontato avvenga nei 5 giorni dal perfezionamento della notifica. Ecco, nel caso che dell'ascoltatrice, Ornella, se ho capito bene, ha ricevuto avviso del deposito presso l'ufficio postale. Non è però ancora andato a ritirarla, se no, non ho capito male. Ecco. In tal caso la notifica si perfeziona il decimo giorno successivo alla spedizione della seconda raccomandata, quindi la signora deve andare all'ufficio postale, Se non sono ancora passati 10 giorni dalla spedizione della raccomandata, il giorno di perfezionamento della notifica è il giorno in cui va a ritirare l'atto. Se invece sono già decorsi 10 giorni, la notifica sarà pervenuta al compimento del 10° giorno successivo alla spedizione della raccomandata. Da quel giorno, anzi dal giorno successivo, scattano i 5 giorni durante i quali è consentito il pagamento scontato. Quindi, se non ho capito male, è ancora in tempo per poter avere lo sconto. Direi di sì, se non è passato più di 5 giorni, sì, diciamo direi proprio di sì, che ha ancora possibilità di farlo il pagamento. Sulla seconda questione, che invece l'ascoltatrice ci ha posto, non ha firmato il verbale, appunto, che quel vigile evidentemente ha compilato in quel giorno in cui stavano litigando, non abbiamo ben capito per quale tipo di infrazione. Allora, lì che cosa succede? Lì temo che ci sia stato un contraddittorio corretto, cioè sia stata contestata la violazione, e il fatto che la signora non abbia firmato il verbale è influente ai fini del perfezionamento della contestazione, pertanto il termine decorre dal giorno successivo a quel giorno di cui è avvenuta la contestazione, e quindi se sono passati più di 5 giorni ormai il beneficio non lo potrà più usufruire, e non credo, a meno che non sia persona diversa dal proprietario del veicolo, che riceva altra notificazione della Maurizio Caprino, vuoi aggiungere qualcos'altro a proposito della questione che stiamo sollevando, quella della notifica? Perché qua, a seconda del caso e a seconda della situazione nel quale si trova l'automobilista non proprio disciplinato, appunto la questione si deve gestire in maniera diversa. Il legislatore non era ben consapevole appunto di questo tema, mi pare. Ma diciamo che non era completamente consapevole, comunque le questioni anche terminologiche per il comune cittadino sono piuttosto complesse. Quando la notifica si perfeziona, giustamente diceva il comandante Ancillotti, ogni caso è diverso. Allora diciamo che innanzitutto se ti fermano sul posto la notifica si dà per fatta proprio posto, esattamente sul posto. In questo caso si chiama contestazione, non lasciamoci ingannare dai termini giuridici, è comunque il fatto, come per esempio è capitato alla signora Ornella, sapeva perfettamente che era stata fatta la multa nonostante non avesse firmato, ma lì conta semplicemente il fatto di essere stata fermata, identificata e che sia stato compilato un verbale. Lei può anche non aver preso il verbale in mano perché arrabbiata, si è girata e se n'è andata, però la contestazione risulta effettuata, risulta agli atti, quindi 5 giorni decorrono dal giorno successivo a quando è avvenuto il fatto. In tutti gli altri casi, cioè quando non si viene fermati, si arriva alla vera e propria notificazione, che può avvenire in tanti modi. Il modo più comune, come dicevi anche tu, è quello a mezzo del servizio postale, quindi la raccomandata. Allora quando io la raccomandata la ricevo a mano, il postino mi trova in casa oppure trova in casa una persona delegata a firmare per me, la notifica si perfeziona in quel momento lì, e quindi anche qui i 5 giorni decorrono dal giorno successivo. Se, come ci capita sempre più spesso nella vita moderna, non siamo in casa, noi riceviamo un secondo avviso che di solito viene spedito a ruota rispetto a quando il postino rientra nella sua sede a dire che non ci ha trovato. Allora lì abbiamo da quell'avviso poi decorrono i 10 giorni che diceva il dottor Ancillotti. Questi 10 giorni, se io non vado a ritirare entro 10 giorni, comunque al 10° la notifica si considera effettuata, e quindi i 5 giorni per pagare in maniera agevolata decorrono sempre dal successivo. Se invece vado nell'arco di questi 10 giorni, io la notifica ce l'ho nel momento in cui vado a firmare, vado a ritirare materialmente all'ufficio postale. Chiarissimo, chiarissimo. C'è però chi fa delle vacanze molto lunghe e delle raccomandate giacciono lì negli uffici postali, e poi purtroppo non è che possiamo in nessun modo rivendicare questo arco temporale breve che ci consente appunto di pagare in termini scontati. Franco da Roma è proprio in uno di questi casi. Adesso chiaramente io mi auguro che si sia goduto pienamente le vacanze, però appunto il tema è questo, Franco, no? Le è arrivata questa notifica quando lei era in qualche posto probabilmente di divertimento. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Io quando sono tornato dalla vacanza ho trovato sia il primo che il secondo avviso nella cassetta della posta, e andandola a ritirare mi hanno detto che non potevo più usufruire del 30%, perché erano passati già i 10 giorni più i 5 giorni. Franco, che cosa possiamo fare? Comandante Ancillotti, c'è poco da fare qua, pur venendo incontro in ogni modo al nostro ascoltatore, purtroppo ormai l'occasione l'ha persa. Direi proprio di sì, non ci sono altre alternative. La notifica si è effettuata 10 giorni dopo il deposito, dopo l'invio della seconda raccomandata, sono decorsi ancora 5 giorni, mi resta la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta nei 60 giorni, equivalente però non alla misura scontata ma al minimo edittale, così come accadeva in passato. Comandante Cillotti, ci racconti un po' i suoi uomini che appunto invia sul territorio tutti i giorni per andare a caccia di automobilisti indisciplinati, sono dotati di tutto il macchinario bancomat per far pagare appunto velocemente eventualmente le sanzioni? No, ancora no, attualmente no, anche se il Comune di Roma sta già organizzando delle procedure per dotare i vigili o almeno un gruppo di operatori, un buon numero di operatori, di strumenti in grado di ricevere pagamenti elettronici. Credo che per quanto a mia conoscenza, credo che solo la Polizia Stradale abbia dotazione attuale di strumenti POS con cui fino ad oggi effettuava il pagamento diretto nelle mani dell'agente accettatore nei casi in cui era consentito. Adesso sarà consentito in modo molto più ampio. Diciamo però che questa sarà una procedura che in futuro verrà utilizzata almeno a Roma sicuramente, vedremo poi in quali altre. Comandante, strutture. Che cosa dicono i suoi uomini di questa novità? Sono scocciati di questo nuovo adempimento? Preferivano la modalità tradizionale? Ti do la contestazione, poi vattela a pagare, oppure insomma tirar fuori anche adesso, far tirar fuori le carte ai conducenti e pagare lì direttamente, oppure insomma è una novità che non vi preoccupa più di tanto? No, noi siamo abituati a fronteggiare le novità, quindi il legislatore del codice della strada è curiero di grandi novità a cui noi facciamo fronte sempre con grande disponibilità, però è inevitabile che qualsiasi novità viene vista con un pochino di diffidenza, ci vuole un po' di tempo per adeguarsi. Certo, anche perché insomma, visto che viviamo in un paese in cui non c'è certezza della legge, ogni giorno ne abbiamo una, io posso anche capirvi. Poi approfondiremo ulteriormente questo aspetto con Maurizio Caprino, perché c'è anche tutto il tema delle commissioni sul pagamento appunto con moneta elettronica. Prima però sentirei Donata dalla provincia di Verona. Donata, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Ci racconti. La mia domanda è: ho ricevuto questa mattina una multa autoaziendale che prevede la decurtazione dei punti. Poi non l'ho letto benissimo, comunque mi pare anche sospensione della patente. E, non riuscendo a comunicare l'effettivo guidatore di quel giorno dell'autoaziendale, è possibile, so che prima almeno era possibile, e veniva fatto un pagamento un po' più alto. Pagando subito riesco a usufruire dello sconto oppure no? Allora Donata, grazie. Maurizio Caprino, da quello che mi ricordo, se non ho letto male neanche il tuo approfondimento di questa mattina, c'è tutta una serie di come dire, infrazioni, quelle particolarmente pesanti, per le quali invece lo sconto non è per niente contemplato. Esattamente, quindi se parliamo di infrazione che prevede la sospensione della patente, in questo caso mi sembra che la scontatrice abbia detto che ci rientriamo, non c'è alcun tipo di sconto, quindi l'unica maniera è ammortizzare i danni pagando entro 60 giorni, altrimenti si paga il doppio, quindi paga il cosiddetto minimo edittale. Però si apre un discorso interessante riguardo alla mancata comunicazione del conducente. Questa infrazione, a mio modo di vedere, è un'infrazione che può rientrare nello sconto, quindi se la signora non comunica chi guidava al momento dell'infrazione, allora lì arriverà un secondo verbale di 270 euro circa, e lì su quello io ritengo che se poi pagato entro i 5 giorni famosi si possa avere diritto allo sconto 30%. Quindi deve fare un po' di analisi appunto Donata, a risalire in particolar modo intanto a chi forse era un'auto aziendale che tra colleghi si dividono, e quindi appunto bisogna risalire, se non capisco male Maurizio, ribadiamolo, appunto a chi guidava quel giorno, in modo tale da poter far valere appunto questa possibilità dello sconto. Sì, poi, fare la comunicazione. Diciamocela tutta, molto spesso si riesce a risalire, ma non si vuole, per salvare la patente dalla sospensione. Quindi al di là della volontà o meno, la mancata comunicazione è punita anch'essa, salvo che ci sia giustificato motivo, e in questo caso la Cassazione ha detto più volte che non c'è giustificato motivo, perché comunque nell'ambito di un'azienda si dovrebbe sempre sapere chi usa un veicolo di servizio in un determinato momento. In ogni caso, quindi c'è questa multa per la mancata comunicazione, però ripeto, anche questa, cioè questa è scontabile del 30%. Salva Danaio. La macchina là, mettila qua, mettila però in un posto dove naturalmente nessuno può contestarti. Allora, stamattina stiamo parlando appunto delle novità introdotte dal 21 agosto nel decreto del fare al codice della strada, in particolar modo parliamo di quelle norme che permettono di ottenere uno sconto sulla multa, naturalmente a patto che si paghi in termini molto brevi e soprattutto a patto che la sanzione sia anche leggera, perché per problemi un po' più importanti come quelli che abbiamo indicato prima della nostra pausa in realtà lo sconto non è contemplato, non è previsto. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, ma ci state scrivendo anche in tanti al 349 238 6666. Allora accontentiamo oggi gli ascoltatori che ci scrivono. Il tema, comandante Ancillotti, ti torno da lei perché volevo ritornare di nuovo sul tema del cosiddetto preavviso di accertamento, e cioè dell'avviso appunto che abbiamo preso la multa, che ci viene rilasciato di solito appunto immollato lì sulle parabrezza dell'auto. Allora, se non trovo il preavviso di violazione e mi arriva a casa la notifica, la devo pagare tutta o il costo di notifica è decurtato, chiede un ascoltatore. No, quello non credo. Il verbale contiene la sanzione vitale, le spese di notificazione, che sono uguali in tutta Italia, più le spese di accertamento della violazione, che invece sono variabili a seconda delle tecniche utilizzate dai singoli comandi per completare l'accertamento. È questo che determina poi, anche in modo qualche volta poco giustificabile, una diversità di somme accessorie da un comune a un altro, che vanno quasi sempre a paralizzare quello sconto del 30%. Comunque è troppo consistente rispetto al certo sconto. Allora Francesco invece ci chiede: per cortesia signora Rosciani, chieda, passare con semaforo arancione che viene letto la targa è un divieto sosta, quanto via? Ci chiede praticamente, se ci ricordiamo forse a mente, le sanzioni previste per comportamenti scorretti come questi. Comandante Ancillotti, se le ricorda al volo. Un attimo, cerco di ricordarmelo al volo. Infatti, forse Maurizio Caprino ha anche pubblicato. Adesso li dico. Sì. Per il semaforo rosso. Arancione. L'arancione in realtà non è una violazione. Cioè, l'arancione consente o vieta il transito a seconda del tempo che è trascorso rispetto all'arrivo del veicolo. Infatti, si parla del cosiddetto giallo prolungato. In realtà, se il semaforo, la luce arancione, si è accesa in tempo utile per consentire all'arresto del veicolo, aver oltrepassato il semaforo con quella luce equivale ad averla passata con il semaforo rosso, e la sanzione è dell'articolo 146,3, va da 162 a euro 646 se commesso in orario notturno, cioè dalle 22 alle 07. Va da 216 a 861 euro, e prevede anche la sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di due violazioni in 2 anni, con 6 punti di decurtazione della patente. Allora, tra l'altro, adesso queste magari sono cose che attengono relativamente al tema di cui stiamo parlando questa mattina. Maurizio Caprino, volevo ritornare per un attimo, abbiamo due ascoltatori, adesso li sento al volo, ma al tema appunto del pagamento con carta di credito o con bancomat, quando naturalmente tutte le pattuglie dei vigili urbani sul territorio saranno dotati di questa nuova possibilità appunto da offrire ai conducenti. Mi chiedo, la questione che mi pare avevamo sollevato anche con te in una puntata di Focus Economia prima delle vacanze, delle commissioni da applicare ai pagamenti con moneta elettronica, sono state risolte o comunque ci sono delle commissioni interessanti, insomma significative? No, le questioni non sono state risolte. Si aspetta che il Ministero dell'Economia e il Ministero dell'Interno promuovano delle convenzioni fra corpi di polizia e banche, e si spera che queste convenzioni siano meno penalizzanti di quella attualmente in essere con la polizia stradale, che prevede appunto un pagamento extra di 5 euro. Anche qui andiamo a impattare in maniera anche abbastanza pesante sullo sconto. Devo dire che altri corpi di polizia locali locale, sono molto pochi quelli che hanno il posto oltre alla polizia stradale, però non stanno applicando commissioni, parliamo di località dove soprattutto ci sono molti turisti, quindi hanno fatto questo investimento, uno fra tutti è il comune di Verona, lì non si pagano queste commissioni, quindi è un quadro ancora frastagliato che va perfezionato, e si spera che queste convenzioni, che dovrebbero vedere la luce nei prossimi mesi, e si spera solo nei prossimi mesi, possiamo quindi aspettare ancora di più, facciano chiarezza. Roberto da Padova, buongiorno. Ancora sul tema della notifica, un altro caso ancora diverso da quelli che abbiamo ascoltato in precedenza. Roberto, buongiorno. Buongiorno a lei, signora, molto gentile. Volevo chiedere questo. Io ho preso un verbale, una multa, il giorno 14 di agosto, uh-huh, in un normale controllo, ma hanno trovato, ahimè, che avevo la revisione scaduta, che era scaduta da 5 giorni esattamente. Oh, è un strumento da fare, ma un po' di verbale. Volevo sapere, perché se ho capito bene, ma questo non è sufficiente, devo aspettare la notifica per pagare, perché a quanto so, intanto ho chiesto subito, mi hanno detto che io non potevo usufruire dello sconto. E poi successivamente ho usato il comando, facendogli vedere che ho fatto subito la revisione, ma non c'è niente da fare. Roberto, purtroppo, tra l'altro, quanto? Che sanzione? Dopo, lei dovrà pagare entro 60 giorni. Quanto? A di 60 giorni. Che multa è prevista per una cosa del genere? Roberto, che multa è prevista per una infrazione, chiamiamola così, che non mi pare neanche tanto, di questo tipo? 168 euro. Ola. Va bene, da mettersi in ginocchio. Quando le ho detto, se avete visto, era una macchina che ha 18 anni e ho già fatto 6 revisioni, quindi sono il primo a dire che, per carità, se è successo mandatemi subito a farlo, ma non fatemi fare una multa di questo genere. Ma comunque va bene lo stesso. Adesso voglio sapere, a quanto ho capito, devo aspettare anche una notifica, quindi aggiungiamo altre spese a questi, e non a 60 giorni. Roberto, aspetti lì, comandante Ancillotti. Certo che qualche volta pure voi siete rigidi, però Non è a Roma, spero. No, è a Padova, però, mamma mia, poverino, 5 giorni, 160 euro, ma pure lì non si poteva individuare, che ne so, mettergli lì in infrazione diversa, giusto? Vabbè, però questo sarebbe stato corretto, certo. 160 euro per una revisione in ritardo? Sì, l'articolo 80 che prevede questo tipo di donazioni prevede come pagamento in misura ridotta la somma di 168. Temo che la facoltà di effettuare il pagamento scontato sia ormai scaduta, perché dal 14 d'agosto c'erano 5 giorni, quindi andava al 19 d'agosto, a meno che l'unica eventualità è che lui non stesse conducendo un veicolo di un altro soggetto, cioè non di sua proprietà. In tal caso, eventuale successiva obbligatoria notifica anche al proprietario del veicolo avrebbe dato la facoltà di effettuare il pagamento scontato, ma dal racconto del signore credo che lui fosse il proprietario del veicolo, e quindi ormai 5 giorni sono decorsi. Allora, Roberto, queste sono proprio le cose di fronte alle quali ci cascano davvero le braccia. Che cosa le devo dire? La prossima volta si metta sul calendario appunto la giornata, il periodo dell'anno in cui questa scadenza appunto va rispettata, e vabbè. Senta un po', ma comandante Ancillotti, ci sono più quelle situazioni in cui si va dal comandante della polizia municipale del posto e magari appunto si ha la grazia? C'è più quella situazione in cui il vigile strappa magari appunto la sanzione, la multa fatta in virtù del fatto che riconosce un errore? Oppure queste situazioni appunto appartengono solo al passato, quando i nostri vigili appunto dei nostri paesi erano nostri amici e adesso non lo sono più? No, dunque, distinguiamo le ipotesi. Se si tratta di un errore oggettivo, certo, incontrovertibile, ci sono delle procedure che consentono un'autotutela anche all'interno delle singole strutture, ma si tratta di errori oggettivi su cui non c'è da fare nessun tipo di valutazione discrezionale. Al di fuori di questo, ipotesi come descriveva lei fanno parte della patologia dei comportamenti e non sono ovviamente consentite. Certo, tra l'altro un ascoltatore, a proposito del caso di Padova che abbiamo sentito poco fa, dice gli è andata pure bene, perché in certi casi c'è anche il sequestro del mezzo. Un ultimo ascoltatore, non riesco a farlo intervenire, Luigi da Roma, chiede quale tipo di contravvenzioni si possono pagare con la riduzione. Guardi, sono tutte bene elencate nella guida pubblicata appunto oggi dalle Sole 24 Ore. Mi rendo conto di fare una spudorata pubblicità alla guida, ma quindi qui facciamo prima, perché c'è tutto un bello schemino, credo proprio anche elaborato dal nostro Maurizio Caprino, che saluto. Maurizio, grazie per essere stato con noi. Alla prossima, perché sai che questi temi li facciamo molto frequentemente a beneficio dei nostri ascoltatori, e quindi ci torneremo. Grazie anche al comandante Ancillotti. A presto. Presto, grazie a voi. Grazie a tutti, noi ci sentiamo domani, a tutti buona giornata.